This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Saga got the team man and all the crew. Lock up in his room. Let's go from PJ. We make coming on in. Booyaka, booyaka, boo. Booyaka, boo. He coming on. Gonna have too many times, you know you're buzzing. Gonna have to the crew locked in. Buon pomeriggio a tutti, non siamo a Londra, questa non è Don FM ma Radio Città del Capo. Buonasera dottor Scarpa. Buonasera a tutte e a tutti, anche a lei dottor ingegner geometra Babe Ferrari. Insomma siamo qui ad ascoltare qualcosa che passava nei primi anni 90 a Londra, ma non solo, perché comunque sta Jungle è made in London, però ricordiamo che quella più famosa forse, no, è quella di Bristol. Tutto cominciò, sì, con molti toaster giamaicani che cominciarono a confluire nei rave party, partendo dal loro sound system. A un certo punto si insinuò l'acid house, guarda, abbiamo già parlato, era la fine degli anni 80, l'acid house era americana. Poi di nuovo arrivò qualcos'altro dall'America, la techno, e la techno diventò hardcore techno, che è più o meno quello che avete sottofondo. Comunque siamo in diretta, questa è Radio Città del Capo, This Is Not an Exit, 15 e 43 minuti primi, abbiamo anche dei numeri di telefono. Sì, e se volete scrivere un sms giusto per farvi sentire, insomma, al 348 76 49 289 per, insomma, se volete magari qualche idea e qualche sulla jungle, se avete pure qualche memoria storica, insomma, di quel periodo primi anni 90, che comunque a Bologna anche spaccava un bel po', insomma, ricordiamo le serate al Link pure o al Livello, insomma, è un genere che andava moltissimo anche da queste parti. Bene, vabbè, facciamo ascoltare qualche pezzo. None of that. Remember, you got the beer happy vibes on the Don FM. Going out to the Doherty down there in Marston. Hold it down. Come to the man like Blackhead. He coming on so dark. Then the next one out to Clear the Bear. Come to the hard time. Yeah, get it high. Terminate. Going out to the PAT crew. Catherine Jones. Keep it up for the 105. Yeah. And a ripper. I mean, what name more of that, yeah? Get happy vibes tonight. Jumping and pumping. Get hyper, hyper. Allora, questa è una trasmissione originale di Don FM del 14 marzo del 1993. Siamo quindi in piena era This Is Not An Exit. Siamo un po' agli sgoccioli in realtà, ma d'altronde la cosa stava cambiando molto, molto rapidamente. La cosa bella di questa musica è che è nata nelle radio, e non solo, è nata nei rave party e ha avuto come mezzo potentissimo di trasmissione, di diffusione, di adunanza le radio FM pirata tipiche dell'East End londinese, non proprio una zona tranquillissima in quegli anni. Quindi si trattava non soltanto di clubbing, ma anche la cultura della radio, insomma, che veniva fuori, no? Dopo le radio pirate degli anni 70, quelle che abbiamo vissuto anche in Italia. Insomma, però radio che davvero stavano pochissimo, nel senso che si occupava uno spazio non stabile, disabitato, poi prima che arrivassero le forze, tra virgolette, dell'ordine, loro scappavano via perché rischiavano magari poi tutti gli strumenti di venire sequestrati, no? E quindi davvero una radio, ma più che, cioè, proprio davvero pirata, non si sapeva manco dov'era la residenza, insomma, la dimora fisica. E quindi davvero molto divertente la cosa. E poi anche comunque i rave che si spostavano. Quindi era rave e anche le radio erano rave, insomma, che erano, si spostavano. Sì, era tutto un mondo, diciamo, sotterraneo, che ogni tanto dal sotterraneo sbucava fuori, bucava l'underground, usciva per circa 70 ore, il tempo di partire venerdì sera, e si disconnetteva lunedì mattina. Quindi copriva tutto l'arco di tempo necessario per adunare 5-10 mila persone in una zona che rimaneva segreta fino all'ultimo, veniva svelata con parole in codice, per adunare gente ai rave party. Non era una radio pirata come poteva essere una radio politica in Italia negli anni 70, alla fine degli anni 70, come Radio Città del Capo, come Radio Fujiko, insomma, la Radio Lice è stata la capostipite. No, non era per motivi espressamente politici, non c'erano dietro dei movimenti politici, c'erano comunque dei movimenti di strada dal basso che, legati molto spesso alla delinquenza, riuscivano comunque a fare delle aree temporaneamente autonome, si chiamano TAZ adesso, però adesso, allora non penso se ne rendessero conto. Semplicemente andavano in vecchi stabili, vecchi palazzi magari un po' alti, dove poter piazzare l'antenna, occupavano vecchi appartamenti disabitati, e immagino che a Londra ce ne fossero in quegli anni, non era Londra del 2015, era ancora una Londra in profonde mutazioni, e via che trasmettevano. Also the pool chambers. Gotta keep hold on tight. And it's on FM, it's so alright. For us, they're coming on. Everybody loves the darkness. Darkness in the daylight. to the man at the airport, baby on Gun FM. Sending the next tune out to the Nasty V. Not just the next tune, but the next mix. It's bigger and it's better. Siamo sempre in diretta, scusateci per la bassa fedeltà delle trasmissioni, ma chi si sarebbe mai immaginato di mettere una cassettina registrata nel 93 qua nel 2015 in diretta a Radio Città del Capo a Bologna. La cosa bella è che ci siamo spostati temporalmente, musicalmente, con un documento dell'epoca di 22 anni in avanti e di 1500 km a sud. Però questi suoni, come diceva prima il dottor Scarpa, si sono spostati un po' in tutto il pianeta. Molto dopo, un paio d'anni dopo sono arrivati anche qui in Emilia Romagna, c'era un locale che si chiamava Mafia, era Reggio Emilia e portava questi DJ, o perlomeno i più famosi, mi ricordo Doc Scott, Fabio, Groove Rider, insomma i Prime Movers, che poi divennero molto molto molto grandi, ma la maggior parte dei DJ, quelli che state sentendo in sottofondo, rimasero più o meno sconosciuti. Gran parte erano di origine giamaicana, abituati a fare toasting su pezzi dub. La micidiale differenza era che qua i dischi dub erano messi, invece che a 33 giri, a 45. E tutto cambiava, complice anche il passaggio dalla ganja ad altre sostanze chimiche. Down with the archive passing through. I'm getting to see you. Come on. The rest of the time is on. This is the song. Down with the one. Track down, that's a funky tune. This track, my man, this track. No, it's a boy, different tracks, you know. Track down to the northeast, south and the west. Your pleasure, Mr. Cotton. The box. What's your pleasure, Mr. Cotton? The box. What's your pleasure, Mr. Cotton? The box. Hey, babe. with the drum and bass. Dome 1857. One, you know me too. We're gonna rock the show. Brand new, exclusive to the DJ R-Type. So nice. Minuti primi, sempre in diretta Radio Città del Capo, This Is Not An Exit. È un sacco di jungle in sottofondo. La jungle deriva in realtà dalla techno hardcore, un'evoluzione ultra veloce della techno di Detroit. In realtà un genere evoluto male secondo i padrini della techno, cioè Kevin Sanderson e Derrick May, che ad ascoltare queste bastardizzazioni della loro opera primigenia, ricordo che a Detroit abbiamo dedicato già un paio di puntate e li potete anche riascoltare sul nostro blog che si chiama thisisnotanexit.altervista.org, ma questo ormai è passato. Invece molto più passato era questo divenire della techno in qualcos'altro, in quel di Londra. Ma possiamo anche immaginarci qual è il nostro bellissimo studio Radio Città del Capo, cosa volesse dire trasmettere con due giradischi, un mixer da DJ attaccato a un trasmettitore portatile di fortuna in una stazione occupata, improvvisata, a trasmettere e improbabilmente inventarsi la drum and bass jungle. Il nome è sempre stato doppio, non si è mai capito da dove uscisse. E comunque mixare in quelle condizioni non doveva essere molto facile. Se probabilmente uno come Derrick May schifava questo tipo di musica che stava nascendo, era anche per motivi puramente tecnici. Era troppo sporca, o quantomeno questa che abbiamo noi nelle nostre mani, era mixata più o meno volontariamente male, oppure involontariamente male, perché i mezzi tecnici erano quelli che erano e anche la maestria dei DJ era ancora in divenire. Poi le cose migliorarono, ma qua siamo ancora, ripeto, all'inizio del 1993 e la jungle era ancora un qualcosa che derivava fortemente dalla technocore. DJ Clip. Dal punto di vista strettamente musicale non è che fossero poi sti gran brani, era tutto molto semplice. Prima abbiamo beccato un riff di tastiera che poteva sembrare, cosa dicevi, Simple Minds. No, Simply Red. Simply Red, ancora, Simply Red, ancora peggio. Tanto proprio. Sì, se parliamo sì di quel pop bello leccato, patinato degli anni '80, made in Inghilterra, vabbè. E sì, e poi loro mixavano, si divertivano a fare un po' i cazzoni. Ma quello, insomma, alla fine comunque non venivano dalla cultura rave, quella un po' prolificizzata, travelling, quindi erano più per un po' alla fine per spacciare qualcosa, insomma, per arrotondare lo scarso stipendio, insomma, lo scarso introito che ci avevano dal sussidio, no? Penso che comunque. Boh, da quel che si legge in giro, dai vari documentari che sono stati fatti, addirittura da registrazione, YouTube è molto potente, molto utile in questi casi. ci sono addirittura trasmissioni dell'epoca fatti da TV inglesi che parlavano del fenomeno in termini meramente delinquenziali, perché queste radio private e tutto il giro rave era finanziato con lo spaccio di tonnellate di metanfetamine, MD e qualsivoglia sostanza chimica potesse essere spacciata in rave party, e sembra addirittura che alcuni dei spacciatori pagassero i DJ perché dessero messaggi in codice con i quali identificarsi all'interno dei rave e quindi incrementare le loro vendite. Fra un pezzo e l'altro, insomma, ci mettevano questi messaggi cifrati. Ma alla fine erano radio commerciali. Diciamo che non pubblicizzavano esattamente saponette da Palmolive. No, per fortuna. Pinchato da applausi, Fuzzy. And that's coming from the man like Mayhem. And he says big shout to the Dunk Crew, number 6. I'll be here off this now. All nice and easy and do this while I'm early. 099467 gets you through. Oh wait, 310947 gets you through. Sounds of the Duke and Overdose. I've got a big shout here going out to the Hong Kong Monk. That's coming from the Hudson Pussy. Big shout out going out to all the Dunkers. Big shout out to all the Witten crew. And all the people down there in Witten you want to contact. You want to get down to Kirby's house pretty quick, mate. Hold it down there, Bradley, mate. Teddy Bear. Big shout out to Ro. Shout out to the Green Man. And then sorry they couldn't come to you earlier. And a big shout out to the Timberley. Last one is coming from Tim. Keep the phone lines going down. 0831099467, get you through. Sounds of the DJ Overdose. Sounds of the Reddit Records crew. Big shout get out to R-Type and Sharon. And that's coming from Russell out down there on Archway. Nice, yeah. Into the sounds of the Overdose, the Reality Records crew. We've got a big shout out to Turner. We've got a big shout out to Far. Mi dispiace anche dire soltanto che siamo a This Is Not an Exit su Radio Città del Capo, perché interrompere il continuum di queste trasmissioni infinite è un peccato, anche perché il singolo brano, diciamo la verità, è molto semplice. Sì, vabbè, non c'era niente insomma di tanto ingegnoso, però era divertente pensare insomma che qualche critico musicale aveva pensato che era proprio il sound per quell'Inghilterra di quegli anni che corre a velocità supersonica verso il nulla, no? Come la generazione che si vedeva attorniata, insomma, lui, critico musicale inglese che scriveva su Melody Maker, non facciamo nomi, però vabbè. Magari stavo riferendosi alla X Generation, un libro che uscì più o meno in quegli anni o poco dopo, ma anche se era ambientato in America, magari le coordinate non erano così distanti. E comunque qua, se la singola canzone mandava tutto in poche riff melodici, il ritmo invece era molto importante e assemblare il tutto diventava qualcosa di estremamente potente e niente, c'è poco da fare, era un linguaggio che attirava migliaia e migliaia di persone, che poi se andassero a schiantare tutte le sere verso il nulla non lo so, però di sicuro le metteva tutte assieme, cosa non facile. Sounds of the DJ Overdose in the mix. Big shout out to Wayne, Jay, and Bob, and John. A big shout out to Wishes and Felt On, and all the crack monsters, you know who you are. And Rob Lloyd, because he's a boy, and that's coming for us. I've got a big shout out to Leo, because you know he loves it. shout out to Ian because he's a turd. That's coming from John. You all know Johnny, so you know what I mean. Big shout going out to John. With respect to the Don. Big shout going out to Paul from the Derby Acid Casuals. And a big shout going out to Martin. Big shout out to Martin, I know you like this one. Shout out to all the Witten crew, all red out at the moment. We've got a big shout going out to Alex from the Century Gym. Coming from Robbie. Here we go, direbbero gli inglesi. Noi diciamo invece, boh, non lo so. Comunque siamo sempre in diretta, stiamo verso la fine. Andiamo, va bene, va bene. Ma il delirio di questa puntata è stata ampiamente compensata dalla bellezza in realtà di queste registrazioni. I brani in realtà messi uno dopo l'altro funzionano e come tuttora a distanza di più di 20 anni. E la cosa delirante è che spesso le voci avevano l'effetto cartone animato, sembrava che tipo la cantante di Dead Can Dance si fosse aspirata dell'elio e si fosse messa a cantare. Beh sì, sicuramente, insomma, rispetto alla techno di Detroit, no? le prime band inglesi, insomma, Orbital e quant'altro, questo hardcore è davvero primitivismo fai da te, quindi comunque è rabbecciato a partire dai loop, un po' di breakbeat accelerati, insomma, fino alla follia, e poi queste voci etere e vocalità femminili, insomma, di gruppi, non so, This Mortal Coil, Kate Bush, Dead Can Dance, come dicevi prima te. Tanto era pirata, chi se ne frega, poteva anche ampliare quel che gli pareva. Certo, infatti era quello, alla fine non era il singolo, era tutto un collage che faceva appunto il genere, ecco, quindi non usciva il pezzo singolo. Era quello il bello poi, no? Alla fine si portava avanti tutta la serata o la trasmissione radio fino insomma, estenuarsi. Sì, certo, non erano come un gruppo di virtuosi rock and roll, se ne sbattevano altamente di sapere screzzare alla perfezione, di campionare, di sapere usare una KS 2000, ma con pochi mezzi avevano un larghissimo spazio in compenso alla fantasia, perché non dovevano rispondere a niente, a nessuno. Non penso che la CIA gli andasse a rompere le scatole, anche perché facevano fatica, provava. Appunto. erano davvero dei pirati. Sì, mi immagino i poliziotti della polizia postale inglese che andavano in giro per Londra con la macchina a cercare di triangolarli, cioè cercare di capire da dove venisse il segnale con due macchine per cercare di vedere da dove fosse la fonte di tanto. Manco i Marò sarebbero riusciti a beccarli. No, due Marò, no, niente. No, quelli proprio. there. Big shout to Rich, big shout to Smee. And let's hope that someone who don't like don't know, all right, let's go. Beh, sono finite anche le nostre trasmissioni pirate di oggi. Non abbiamo trasmesso 70 ore, non so se saremo in grado, non senza additivi perlomeno. Eh beh, certo, per fare quelle ore insomma ci vuole qualcosa. Certo. Vabbè, niente, insomma, una puntata abbastanza danzereccia, molto diversa rispetto a quella della settimana scorsa che si parlava di teutonici, no? Di Sergente Neubauten, molto più, insomma, questi qua... loro un po' seriosi, questi davvero dei cazzoni che andavano in giro per Londra, insomma, a farsi poi inseguire dalle forze tra virgolette dell'ordine. E quindi niente, la prossima, sabato prossimo tanto salteremo di palo in frasca anche sabato prossimo, non preoccupatevi, lo stile è sempre quello sicuramente. Allora niente, Geometra Ferrari, a risentirci e buon ascolto con la trasmissione successiva. If the Kids Are United, i miei omaggi a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e la saluto anche lei e anche le nostre ospiti in studio. Ogni tanto abbiamo anche noi i nostri fan, e a risentirci, ciao.